Famelico, demente, depresso, quasi assente, aumento di dolore, possesso di calore, non mangio, non dormo, non sudo e tramuto in te. Poi delicatamente mi svesto della gente, mi spingo nel mio letto, respiro e mi riciclo, domani vorrò. Domani aspetto, domani potrò, domani ho tempo. Non è il tempo il metro, non si calcola l'odio, si riscalda col sonno e poi brucia di più. Brucia di più, non è...